Ladies and gentlemen, Millennium Technology Prize 2008. Se ci fosse un Nobel per la tecnologia, sarebbe questo, il Millennium Technology Prize. Ovviamente istituito in Finlandia, mecca della Nokia e capitale europea della tecnologia. The Millennium Prize. Come spiega Steve Gustafsson, presidente della Technology Academy finlandese, il Millennium Prize è il riconoscimento biennale conferito alle innovazioni che più di altre hanno rivoluzionato la vita dell'umanità. La prima edizione, nel 2004, fu vinta da Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web. 2008 Millennium Technology Prize to Dr. Robert Langer. Quest'anno gli 800.000 euro di premio sono toccati a Robert Langer, professore di ingegneria chimica del MIT, ideatore delle terapie a somministrazione controllata che sotto forma di pillole e chip sottocutanei, ormai usati da 100 milioni di persone, combattono cancro, disturbi cardiaci e altre gravi malattie. È come in Star Trek, possiamo sparare le medicine nella pelle attraverso ultrasuoni, spiega Langer, che ora sta sperimentando il modo di inserire addirittura geni all'interno di nanoparticelle da inviare direttamente alle cellule tumorali. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Helsinki.